Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stolmore Rock. Questa puntata, come avevo forse preannunciato domenica scorsa, è puntata di intervista. Ma prima effettivamente di svelare a chi non ha seguito in settimana gli avvicendamenti di chi avrei avuto qui effettivamente in diretta, c'è la notiziona dell'altro giorno, comunque di questo fine settimana, dove c'è questo grande ritorno dei Linkin Park, quindi con questa nuova frontman. Non dico nuovo, perché effettivamente è una ragazza che ha preso il posto purtroppo del mancato Chester Bennington, che si purtroppo, diciamo come è stato, effettivamente si suicidò nel 2017, quindi non pare, comunque sembra da quel mio punto di vista non proprio un rimpiazzo per quanto riguarda la band, ma proprio un nuovo inizio, perché effettivamente cambiando totalmente anche genere sessuale per quanto riguarda il frontman principale. E questo mi fa pensare a un nuovo inizio di Linkin Park. Magari poi ovviamente mi prenderò un po' più di tempo quando effettivamente andrò a mettere un pezzo per annunciare la loro uscita, perché usciranno a novembre con il nuovo disco, c'è già un tour in America, quindi probabilmente passeranno anche in Europa e magari in Italia, quindi ne parlerò ampiamente a tempo debito. Ma come dicevo inizio puntata, questa è domenica di intervista, quindi è qui da un paio di minuti che mi sta aspettando e ve lo introduco anch'io, quindi è qui con me Marco dell'Ineas e andremo a parlare appunto dell'Ineas con il nuovo album I Wish I Lived This Life. E quindi ciao Marco per la terza volta. Ciao Dani, è un piacere essere qui con te sullo Stolmore Rock. Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo diverso tempo, ma questo ne andremo a parlare anche un attimo. Sì, sì. Andremo a parlare tra un attimo. Tutto bene, tutto a posto? Tutto bene, sì. Oh, bene, bene. Un po' di stanchezza post estate, ma tutto bene, dai. Alla fine sembra una stronzata, però andare in vacanza stanco un attimino, dice un bella vado a vedere, mi spendo un sacco di soldi, però servirebbe un paio di giorni per riprendersi, per dire ok, adesso non faccio veramente niente prima di rientrare a lavorare, così scarico tutto, anche il divertimento che ho fatto. Però va bene, ci sta. Allora, dopo un attimo questi brevi convenevoli, ovviamente che sono doverosi, perché sennò sembriamo due stronzi che si guardano e basta, in realtà ci conosciamo da diversi anni, quindi mi fa un sacco piacere. Sì, un bel po', sì sì. Esatto, quindi come ti dicevo mi fa un sacco piacere che siate riusciti ad uscire col disco, ma ne parleremo tra poco. Dato che sei nuovo, diciamo, nel senso come ospite, c'è una domanda, non so se hai seguito qualche intervista precedente. C'è una domanda canonica, classica, che faccio sempre di introduzione, che è riguardo... Sono pronto. Sei pronto, quindi immagino che saprai cosa ti vado a chiedere. Dello scioglimento di NoFX, ovviamente siamo a tirissimo dello scioglimento appunto della band, quindi ti chiedo brevemente cosa sono per te NoFX. Sicuramente sono una band che ha impattato solo anche averli sentiti nominare, credo, cioè comunque l'eco di quello che hanno fatto anche a livello solo di etichetta, se pensi a Fat Mike, non solo magari nei dischi che hanno scritto, cioè hanno lasciato un segno che dire che non l'hanno fatto secondo me sarebbe assurdo. A livello personale li ho ascoltati tantissimo, non penso sia una delle band che mi abbia influenzato sicuramente di più nel mio percorso personale, però insomma una band che mi piace tantissimo, ci sono dei dischi che mi piacciono tantissimo, dei dischi che mi piacciono meno perché ne ho fatti veramente tanti, però e c'è sempre quel sapore un po' di amaro quando una band magari si scioglie, perché comunque obiettivamente puoi pensare era ora che lo facessero, però ti dispiace comunque sempre, cioè, se è una band che ti è piaciuta pure. Certo, no, capisco, infatti io come magari chi ha già seguito, magari hai sentito anche te, sono andato su a Milano che ci siamo anche beccati e poi anche in Drablic, quindi sì. A fine concerto, il secondo giorno un po' la lacrimuccia è scesa, perché dici sì, il secondo soprattutto. Si dice io sono 20 anni che li ascolto, quindi sai, ci si rimane un attimo male, dici vabbè, però va bene, quindi... Mi fa piacere, sei entrato anche tu in quelli a cui l'ho chiesto, quindi come dicevo difficilmente qualcuno scappa. E effettivamente andiamo a parlare con Marco basso e voce dei Lillians per quanto riguarda il loro disco. Avevamo un attimo introdotto questa domanda ipotetica per quanto riguarda appunto la band, che finalmente ho introdotto così e finalmente sono riusciti ad uscire appunto con il debut album, di cui ti ti ho ricordato, diciamo, più o meno con l'ultima volta che ne avevamo parlato, sì, che è stato questo, questo concerto dei Dune Rats al, al Bronson di Ravenna. Come al Bronson. Come ti dicevo, come mi dicevi, era uscito da poco un singolo, di lì a poco sarebbe dovuto uscire effettivamente anche l'album, però questo album, che se non ricordo male ci ha messo un anno e mezzo, due ad uscire. A sì, un annetto. Parola. Come mai sì, sì, c'è tanto ritardo, diciamo? Ma in realtà penso che tutti il ritardo, comunque le tempistiche con cui è uscito l'album, siano da imputare, non in maniera negativa ovviamente, anche se è un brutto termine da usare, alla scelta e al trovare l'etichetta con cui farlo uscire, e che poi è stata Tropical London Records, che è nata facendo uscire il nostro disco, quindi siamo, come per noi era il nostro primo disco, per loro era il primo disco fatto uscire, quindi è stato anche un percorso fatto insieme con Simone, che è un nostro amico, che dall'inizio si è interessato al progetto, ha sentito le demo, ha sentito le robe che facciamo in studio, c'è sempre stato un po' addosso, nel senso bello, e lui collaborando con Wild Honey, da tutti i costi ha voluto far uscire il nostro disco, che però ci sta il ragionamento che se non sia un disco per il pubblico di Wild Honey, quindi magari è anche fatica per un'etichetta che ha un pubblico diverso venderlo, comunque proporlo a chi sono di solito i loro interlocutori, quindi Simone ha creato questa etichetta dal nulla con l'intento di farci il nostro disco, ma sono sicuro che parlando con lui, cioè, nel tempo farà altre uscite molto belle, secondo me, cioè, sia per noi che abbiamo fatto uscire il nostro primo disco, sia per lui che ha fatto questa etichetta, secondo me è stato un bel partire insieme, ecco. Quindi in realtà le tempistiche sono state per quello, perché abbiamo voluto fare bene le cose con Simone, quindi ci abbiamo messo il tempo che ci abbiamo messo tutti a un po' impostare il lavoro, ecco, anche se là il disco era finito, sì, da un annetto più o meno. Ah, ok, no, va bene, mi fa piacere. Quindi giustamente, piuttosto che tirare un'uscita via così come capita, almeno è stato un attimo un ragionamento su come e dove farlo uscire, quindi esatto. Ci sta alla fine, dai, piuttosto il risultato direi che è più che ottimo. E, per chi non conoscesse, i Lilians sono una band romagnola, tutti romagnoli se non sbaglio. Sì. Gli altri due sono di Forlì, io sto più vicino a Rimini, sto a Bellaria. Ah, ok, vabbè, quindi vi trovate più o meno a... Dov'è la sala? Diciamo che era vicino a Cesena, infatti in realtà diciamo a Lilias da Cesena, anche se nessuno abita a Cesena in questo momento della nostra vita, però Lilias da Cesena. Il punto focale in cui andate vi ritrovate, esatto, per fare le prove a Cesena, quindi va bene, ok. Quindi diciamo di sì. Diciamo Cesena. Dicevo, per chi non li conoscesse, sono una band punk rock pop punk che si rifanno, come avevi detto, anticipato tu, e ti ho ribadito che effettivamente il prodotto finale effettivamente è riuscito a quello, un po' come ispirato a quello che facevano Blink 182 e i Boxcar Racers, giusto? Sì, assolutamente sì. Quindi come... Sì, cioè, vai. È una cosa che anche noi abbiamo, cioè, dichiarato dall'inizio, nel senso... volevamo rifarci a quella cosa lì. Comunque i Blink in primis sono una delle influenze più grandi, se non la più grande, per tutti e tre, e secondo me nessuno dei tre aveva suonato questa roba così, e mi ha detto perché non lo facciamo, perché non ci proviamo, se è comunque la musica che ci piace di più, la band che ci piace di più, e vediamo cosa viene fuori. E ovviamente c'è tutti poi i progetti nati da Mark Hoppus, da Tom DeLonge, come i Boxcar Racer, Plus 44 un sacco. E ovviamente tutte queste produzioni ci hanno influenzato, non sono l'unica influenza che abbiamo sul disco o nelle nostre vite, chiaramente, però abbiamo voluto indirizzare sicuramente la scrittura dei pezzi, che poi comunque ci è venuto anche molto naturale fare questa cosa in quel senso lì, ecco. No, ok, ci sta. Quindi altre influenze oltre Blink e Boxcar Racers, cosa avete infilato, diciamo, in mezzo? Questo classico punk rock hardcore melodico alla Wise o News for Name? Ma sì, sicuramente, anche Cino comunque ha suonato in delle band in cui facevano più hardcore melodico, lui ce l'ha anche questa cosa, magari gli piace un sacco di band che fanno hardcore melodico, a me piace un botto gli Alkaline Trio, comunque quelle band... Ok. Non vorrei dire, cioè, dopo la parola sbagliatissima è la parola emo, che non c'entra niente, però che quel punk rock un po' più, non so, da cuore, non lo Un so, gli po'. Ataris, per esempio, non lo so. In realtà diciamo che cioè, avendo citato Alkaline Trio e Ataris, diciamo che era quel punk rock un po' emo, però di vecchio stampo, non quella roba un po'. Anni 2000 comunque, sì. Ecco, esatto, quindi secondo me ci può stare come riferimento. Dici, faccio riferimento a pop punk emo, ma non quell'emo. Oddio, che adesso non mi viene in mente nessun altro, però quel punk rock emo appunto dei primi anni 2000 dove l'emo aveva un impatto diverso a quello che è adesso. Oh, sì. Sì, Quindi ci sta, ci sta. no, dai, comunque dai, cioè, se parliamo già solo di punk, c'è cioè, qualsiasi derivazione poi del genere, comunque in un modo o nell'altro ci ha influenzato, che sia il punk rock, che sia il pop punk, che sia un po' di hardcore, che siano tutte le derivazioni un po' più nuove che sono uscite negli ultimi anni, però diciamo che il punk in generale, il punk rock, è presente nelle nostre influenze in tanti modi, poi c'è cioè, chi ascolta altro, però diciamo che quello è... Quello che ci ha fatto diventare così, dai. No, ok, ci sta. E riprendiamo la diretta sempre con Marco dei Linians, di cui stavamo un attimo ovviamente parlando. Volevo fargli una domanda off topic su quello, sul nuovo rientro, ma in realtà è subentrato un gossip che non mi aspettavo. Quindi, come nasce l'amore anche su Instagram, volendo, poi dopo vedete voi. Vi faremo un video spiegone di come nasce l'amore su Instagram a questo Esatto, punto. tanto alla fine, come dicevo prima, questo video verrà caricato interamente dopo la diretta, quindi c'è anche questo sketch che comunque salterà fuori. Allora, tornando invece ai Lilians, ovviamente sicuramente te lo dico già un attimo, te lo chiedo già un attimo adesso, che così lo ricordiamo adesso e magari lo ricorderemo anche nella seconda parte dopo la pubblicità. Date dei Lilians già fatte, o anzi, più che altro da fare principalmente. Poi dopo da già fatte mi dirai quella Certo. più bella che avete fatto. Ok, adesso a ottobre ripartiamo a suonare un po', che agosto e anche settembre che è arrivato non abbiamo fatto date, non faremo date e saremo l'11 a Rimini, ancora una data da svelare e con chi. Mentre il 12 suoneremo a Verona, il compleanno di Andrea degli Splintera con gli Stanis e con Andrea che propone pezzi in acustico all'inizio serata. Quindi se volete fare festa a Verona e siete delle zone, venite a trovarci il 12 ottobre. E saremo la settimana dopo a Ravenna, al Bronson, il 19 sabato. E poi uscirà una data al nord, fra un po', diciamo Lombardia. Ancora non diciamo niente perché non si può. Diciamo la macro area, però non Facciamo i abbiamo. misteriosi. Sì, Bravo, bravo, esatto. perché mi hai spiegato un attimo che questa era una data un attimo X, non si sa se si poteva dire o annunciare già adesso, però comunque teniamo un attimo nascosto. E quella invece di Ravenna al Bronson, siete solo voi, suonate in apertura qualcuno, avete qualcuno di spalla? Anche lì non so se posso già svelare perché ho visto che hanno svelato noi, ma non le altre band. Non le hanno ancora annunciate, quindi non so se è un altro spoiler che posso o non posso fare. Quindi Ok, allora questo me lo scrivi. lasciamo del velo di mistero anche qui. Comunque 19 ottobre Bronson, Punks Party o Punks e basta, Ok, quindi non mi ricordo. questa nel caso me lo scrivi un attimo tu in privato, che così tanto io non spoilerò mai a Sì, nessuno, quindi giusto perfetto. che mi tolgo la curiosità. Bene, mi fa piacere. Quindi ti dicevo anche delle date che avrete da qui a quasi fine anno, poi ovviamente spero che ne troverete delle altre. Sì. Di quelle che avete già fatto, qual è quella che ti è dato più emozioni, diciamo, più bella, che vi sta dando proprio più carichi? Ultimamente ce ne sono state un po' che mi sono piaciute tanto. Sicuramente una di queste è stata il Punk Rock Raduno. Bene. Perché sembra una banalità, perché penso l'abbiano detto tantissime persone, ma salire sul palco del Punk Rock Raduno in quella situazione lì, con la gente che c'è al Punk Rock Raduno, è veramente bello. Cioè, fatti un esempio su, abbiamo venduto un sacco di merce e gente che magari non ci aveva mai visto, ci ha visto lì, sia italiani che stranieri, ma poi la presa bene generale che ti crea quell'ambiente, è stato bello in ogni senso suonare al Punk Rock Raduno, bellissimo. Con un sacco poi in una lineup con band che a me piacciono tanto, tipo gli Stiglitz di Genova e Jaguero, c'erano gli ultimi la sera, cioè è stata bella proprio la giornata. Tutti contentissimi, cioè, quindi quelle sicuramente sono le date più belle che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente Se no, abbiamo suonato anche lì, secondo me, molto bello per il palco e tutto. Abbiamo suonato poi anche lì per la situazione, perché abbiamo suonato la release party dei Menagramo al Bloom, Ok. e insieme ai Menagramo, ovviamente, agli Irma, un'altra band delle zone della Brianza. Non vorrei dire una cavolata anche questo, perché gli voglio bene qui, ragazzi. Però sì, diciamo comunque zone Bloom. E anche quella fu una data bella, bella. Poi, beh, penso che chi mi conosce un attimino sa che i Menagramo sono una band che a me fa impazzire, una delle mie band preferite, quindi. Già partecipare alle release party bello, poi il Bloom è un posto fighissimo dove suonare, quella è andata bellissima, ma in realtà poi ogni volta che suoni sembra quelle cose un po' da democristiano, che dici è bello dappertutto, Cleveland sei la piazza più bella che abbia mai Sì, visto, no, sei il pubblico esatto, che migliore, esatto. però no, nel senso che ti diverti bene o male un po', raramente ci è capitato, penso mai, di dire oh, no basta, che palle oggi, no. E poi la fortuna è che man mano che andiamo avanti, secondo me, si creano situazioni sempre più belle, quindi spero magari di dirtene altre in futuro, nel senso. Però siamo tolti le belle soddisfazioni, siamo passati dei bei momenti soprattutto, ecco. Ok, intanto scrivono Christopher saluta, Croc Ciao raduno, Christopher. bomba, Bloom pure, e poi c'è Warlos, Riccardo, il nostro amico ovviamente in comune, che dice come Sì. sembrava parlare Cuzzo, Cleveland merda. Adesso questa non so a cosa si è riferito, proprio so che sia una battuta tra di voi che non momentaneamente non so di cosa. No, in realtà penso non sia mai venuto fuori Cleveland merda, ma se l'abbiamo detto adesso, creiamo il precedente e continueremo a dirlo. Ha ragione Warhols comunque. A prescindere, va bene, ma Cleveland va merda, sì, Cleveland merda. ok. Ciao, Rick. Seconda parte di Les Tolmo Rock, rientrato un attimo con il lunga, in lungo perché ci eravamo un attimo dilungati in chiacchiere. Ovviamente, ripeto, il video si vedrà tranquillamente a fine puntata, lo caricherò subito, quindi se qualcuno volesse commentare può tranquillamente farlo post oppure attualmente, come Nicola che ci saluta, che dice magari lo conosci tu perché Ciao dice bella Nico. Cuzzo. Per chi volesse invece mandare un messaggio tramite WhatsApp, me lo sono dimenticato nella prima parte, però può tranquillamente rimediare nella seconda scrivendo su WhatsApp al 333-180-94-94. Non è il mio numero, Che non è il suo, esatto, non è il No, suo numero, diciamo che no, sai perché dato che qua c'è stato un gossip importante nella prima parte, quindi adesso andiamo a dare numeri anche Esatto. particolari. No, in realtà è il numero di WhatsApp che ho qua davanti a me della radio. E continuando ovviamente a parlare sempre con Marco basso voce dei Lilians, mi sono sempre chiesto, in questo caso anche che voi siete in tre, quindi una chitarra sola, come magari possono essere gli Alkaline Trio, i Blink-182 e quant'altro, molto spesso capita che da disco vengano registrate effettivamente due chitarre per fare un suono un po' più Certo, sì. pieno e per fare giri diversi, chi continua il riff principale, chi magari passa sotto con le ottave. Per quale motivo poi alla fine non si va a creare una band a quattro membri con effettivamente due chitarre piuttosto che una sola da live, ma che si sente benissimo che da disco sono due? Domandone, però è Allora, giusto capire per sì, me, perché. certo. Allora, il discorso è, secondo me, se tu nasci come band in quattro, ovviamente il problema non si pone, ma se tu nasci come band in tre, componi il disco, cioè ti si vengono a creare comunque delle dinamiche anche di rapporti personali, non solo musicali, con le persone. E non dico che poi non puoi aggiungere nessuno, perché tanto penso sia pieno di esempi la storia della musica di gente che magari aveva una band in tre o in quattro, e poi è diventata in quattro o in cinque, quindi. Non è che è impossibile, però noi ci abbiamo ragionato anche su questa cosa e ci spaventa, tra virgolette, più l'idea di aggiungere un membro in più che viene sempre, tra virgolette, da fuori, anche se è una persona che magari conosci da tantissimo tempo, però come ti dicevo, all'interno della band comunque si creano delle dinamiche di rapporti anche, di metodo di lavoro, di sapere cosa piace agli altri, di sapere anche dove te ti puoi spingere, quindi noi abbiamo questo rapporto in cui sappiamo tutto. E magari mettere una variante in più, una variable in più, non è così facilissimo da inserire. Poi in futuro non lo so, però sicuramente adesso come adesso non è un'idea che abbiamo e sappiamo, siamo consapevoli del fatto che comunque dal vivo c'è cioè la spinta di un'altra chitarra, una roba è sicuramente in più diversa, però si trovano comunque soluzioni per riempire, ecco. E anche banalmente nel modo di suonare, che non, magari non suonare solamente un paio di accordi, maniera di suonare un po' più aperto tutto, che riempie, quindi c'è... Ecco, il motivo per cui non abbiamo un quarto adesso è questo. No, no, no, certo, è giusto. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo. Va fa culo. Però qua, nel caso, se voleste un quarto membro, una seconda chitarra, ovviamente saranno vari amici. Facciamo un casting. Tipo X Factor, roba per i Lilians. No, tipo quelle robe casting couch più mettiamo un divano. Bravo, ok, capito. E filmeremo tutto quando faremo i casting per i Lilians, ecco. Ah, vabbè, ok. Quindi probabilmente ci saranno un sacco di seguito anche in quello lì, sappi sì. Che... Probabilmente dovremo farvi firmare anche una liberatoria prima di... Però adesso, va bene, parleremo. Adesso non stiamo a cincischiare su questi dettagli che poi alla fine ne servono poco e niente, però è giusto per capire un po' come potrebbe funzionare. Prima di mandare un altro pezzo di cui mi hai mandato dei tre che non ti ricordavi, ovviamente in battuta, scherzo, non sto scherzando. Sì, ovviamente. Sì, figurati. È Move On. Qual è il pezzo dei 10, giusto, se non mi ricordo male? Sì, 10 pezzi sul disco. Qual è il pezzo preferito e perché mi hai mandato proprio i tre che mi hai mandato? Allora, forse il mio pezzo preferito è 17, perché è molto personale e parla di come comunque nella vita a volte fai di tutto per tirarti su da solo, e ovviamente tante volte sei da solo nelle situazioni, ma poi ti ricordi comunque intorno alle persone che ti vogliono bene, che ti aiutano anche a uscire dalle situazioni, anche quando magari tu non la vedi sta cosa, poi te ne accorgi dopo, però c'è chi ti vuole bene, c'è sempre. Quindi è un pezzo dedicato un po' a tutte le persone che ci vogliono bene in generale, quindi è... E poi vabbè, come sonorità mi piace tantissimo perché mi piace. No, quindi forse è il mio pezzo preferito. Le tre che ti ho mandato te le ho mandate perché Move On, perché è il primo singolo, e boh, una rinfrescata su Move On, che secondo me anch'io personalmente me lo sto cagando un po' di meno, perché è stato il primo a uscire, ho detto ah sì, ci sta. Poi è un pezzo molto rappresentativo secondo me per quello che siamo, quindi ci sta assolutamente. Wasted e Another Life sono due pezzi che non sono usciti come singoli, che per me sono due pezzi molto energici, e sono un po' una fotografia della parte, ecco, più energica della nostra band, delle melodie che ci piacciono, e secondo me meritavano, ecco, dai, di essere evidenziati in questo momento. Non essendo singoli, ho pensato a due pezzi che, no, che mi ascolterei io in questo momento, ecco. Hai fatto molto bene. Verso la fine, ci stiamo dirigendo verso la fine di Last Storm or Rock. Sono sempre qui collegato con Marco dei Lilians, basso, voce. Appunto dei Lilians, che sono usciti con il debut album I Wish I Live This Life. Ricordiamo un attimo le due date che comunque avrete da qui a fine anno momentaneamente, che una è del 12 di ottobre a Verona con gli Stanis e Andre degli Splinter a Part of Us per il suo compleanno, e il 19 siamo a Ravenna al Bronson, il 19 ottobre, sempre di sabato. Se volete venire a fare un giro, che siete delle zone, ci fa piacere, mettiamo due pezzi, quelle cose lì. Esatto. Adesso fra un po' ne escono anche qualcun'altra e speriamo di riempirci un po' di date, perché abbiamo voglia di suonare in giro. Ci sta. Dopo, appunto, come dicevamo inizio puntata, questa tempistica purtroppo che si è allungata appunto per l'uscita del disco, quindi adesso che è uscito potete finalmente suonare con appunto un disco alle spalle, non avendo solo dei pezzi che magari dici io vorrei ascoltare, ma dove li trovo tutti questi altri pezzi. C'è qualcosa dal disco che avete lasciato fuori, qualcosa che non vi convinceva, qualcosa che non è venuto bene come volevate? Ma in realtà no, perché quando abbiamo iniziato questo progetto, nel giro di 3-4 prove, secondo me, forse anche meno, avevamo già scritto secondo me 7-8 pezzi, e da lì siamo contenti, vabbè, facciamo le 10, non so chi ha deciso, facciamo il disco. Abbiamo fatto quei 10 pezzi e li abbiamo registrati fondamentalmente, li abbiamo iniziato a suonare in giro, abbiamo iniziato a registrarli. Quindi dal disco non è rimasto fuori niente, però appena abbiamo finito di registrare il disco abbiamo un sacco di roba, non ti dico pronta, però mezza pronta, un sacco di idee, registrazioni, cose, e cioè, quindi non è rimasto fuori niente dal disco, ma c'è tanta roba che è già stata più o meno scritta da quando è stato finito quel disco lì. Ah, ok. Beh, si dice che essendo uscito praticamente un anno dopo averlo scritto, quindi dice effettivamente Sì. nel mente non vi siete appollaiati dicendo vabbè, ormai il disco è uscito, No. è finito, con calma uscirà, però intanto mi suono ste robe qua, però continuo a tirare fuori roba nuova che comunque ci sta, perché è piuttosto che rimanere Sì, e poi quando ti sul viene non è che dici silenzio. no, la fai venire. Esatto, alla fine ti ci metti, ti ci stronchi sopra, però alla fine qualcosa di buono salta fuori. Quindi Sì. alla fine, se avrete anche un EP, a breve io come al solito ti rinnovo nuovamente l'invito. Quindi se uscirete a breve anche con un EP Con qualcos'altro. o anche che non sia un singolo, ecco, l'unica cosa, se mi dici Vezza un singolo, Certo. quello purtroppo tirare su una puntata con un singolo solo mi è tanto No, è difficile, quindi difficile. Sì. però No, se facciamo un triplo disco un noi. triplo disco, Più mamma mia, come. DVD, ovviamente. Eh beh, chiaro, con i live, i footage, Rare e quant'altro, B-side e quant'altro, un po' come No, fecero. nel DVD sono gli outtakes che abbiamo registrato di nascosto alle altre band con cui abbiamo suonato in questi 2 anni. Non gliel'abbiamo mai detto. No, sto scherzando, Poi qualcuno si prendeva, no, No, scherzo. esatto, mettila subito così, perché sennò poi. Ah sì, veramente, quindi. No, vabbè, un po' come fecero i System of a Down tantissimi anni fa con Hypnotize Mesmerize, che uscirono praticamente a distanza nello stesso anno, a distanza di 6 mesi uno dall'altro. E quindi c'è chi effettivamente ha dell'inventiva, oppure dice vabbè, anche se ricorda qualcos'altro, me ne strafotto. E l'importante è che tiro fuori qualcosa di nuovo. Vabbè, anche qui ci sarebbe tanto da parlare. E una domanda, che così dopo mi prendo un altro passaggino per un'altra nuova uscita. Adesso non, col fatto che ti dicevo, sono stato sincero subito, il disco non l'ho ascoltato tutto, però quello che mi ho ascoltato mi è piaciuto tanto, questo ricordo Blink-182 e Grazie. Boxcar Racers. Infatti, no, se sono sincero. Avete dei pezzi in italiano che magari mi è scappato qualcosa in mezzo? No, assolutamente no, e non c'è nessuna idea di fare pezzi italiani in futuro. Cioè, ti è venuto fuori il discorso così, tipo per un nanosecondo, è stato troncato subito da tutti e tre, quindi Ah, al proprio. momento almeno non esiste proprio neanche l'idea o il pensiero di farlo in futuro, quindi se tutti i pezzi in inglese sul disco saranno in inglese anche Ok, prossimamente. infatti era quello che ti avrei chiesto, se c'era qualche idea di pezzi in No. italiano. Perché Proprio lì. il fatto che comunque ci piacciono delle band tipo i Blinko che fanno quella roba lì e tendenzialmente la ricerca di questo sound un po' più internazionale ci porta anche a escludere comunque già l'italiano come lingua da usare. Non la sentiamo nostra in quel senso per quello che vogliamo fare noi, non è una critica all'italiano o a chi canta in italiano, ovviamente, io ho messo tantissime band che cantano in italiano che mi piacciono tantissimo. A voglia. Non la vediamo per noi, ecco, almeno in questo momento ne siamo abbastanza sicuri. No, anche perché. Totalmente sicuro. No, ma ci sta come ragionamento. Dici, piuttosto che tirare fuori una carognata, me ne parlo in, me la tiro fuori in inglese, che magari Sì. me la gestisco meglio, perché il cantato in italiano, ne sono l'esempio attualmente. Adesso ovviamente la band del momento, di Bull Brigade, hanno dei testi estremamente belli, estremamente ragionati, e quindi se non tiri fuori una roba anche un pelo sotto a quella, ti È senti e un dici, casino, sì. no, beh, piglia malissimo, piglia malissimo. Quindi dici, guarda, Sì. piuttosto me la canto in inglese e me la gestisco meglio. Bene, bene, quindi abbiamo anche tirato fuori questo discorso, se prima o poi tirerete fuori un discorso in italiano o meno, ma momentaneamente no. Come dicevo una decina di minuti fa, sono praticamente addirittura d'arrivo qui con Marco dell'Illians, che sono usciti, ripeto, per l'ennesima volta con il debut album I Wish I Lived This Life, debut album dell'Illians, appunto. E ti vado a chiedere l'ultima domanda, che è un po' aperta, nel senso non spoilerò mai niente, perché appunto per evitare di avere una risposta, cioè appunto per avere una risposta più sincera possibile. Quindi, prima di tutto ti ringrazio della disponibilità e grazie per Grazie quest'ora, che ci siamo divertiti un sacco, sinceramente. Grazie a te dell'ospitata, mi ha fatto un sacco piacere finalmente riuscire a passare qui da te, tutte le volte che ne abbiamo parlato dal vivo, vedi, ce l'abbiamo fatta, anche, no, contentissimo. Anche virtualmente ce l'abbiamo fatta comunque. E diciamo, noi ci conosciamo nella vita reale, voi che non lo sapete. Bravo, bravo, e comunque non è che invito solo gli amici in radio, invito anche tante altre band, certo, che non conosco, sì, quindi sì. Adesso non è che anche mi difendo un attimo, che dici, ah, chiami solo gli amici in radio, no, non è vero, io... C'è uno storico sulle Stormo Rock che ho chiamato, sì, sì, meno sì, male, lo sappiamo. Chi riesco. Ti dicevo, ultimissima domanda, c'è qualcosa, scarica barile, premessa, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che volessi dire? Lo so, il silenzio iniziale. Uff. È quello, lo so. E ascoltate sicuramente il nostro disco, perché c'è il modo più banale in cui potete dare anche far crescere una band, ma anche se poi vi fa cagare, cioè lo potete scrivere, cioè, nel senso, ci fa piacere dire, oh, guarda, io il disco l'ho ascoltato, però mi piace, va bene, o io l'ho ascoltato e mi piace. Poi in realtà, cioè, vi consiglierei vivamente di andare a vedere un sacco di situazioni che abbiamo qua in Italia, perché c'è della musica veramente figa con un sacco di band che spaccano. Delle volte è solo un po' la pigrista di non andare agli eventi famosi che ci preclude dei momenti, secondo me, che ci farebbero scoprire tante cose che ci piacciono, come tante band che ci piacciono, perché fidatevi che è pieno, basta voglia di scoprirlo un po', soprattutto se vi piace il punk rock, ci sono tante band valide anche in Italia. Quindi alzate il culo, andate a vedere i concerti, che la maggior parte poi delle volte sono pure gratis, quindi... c'è anche quello, e ascoltate il nostro disco, scriveteci poi sulla pagina di Ignazio, dico, ragazzi, bello il disco, potevate fare meglio, bello il disco, però dai, così, no, e no, mi piacerebbe vedere dal vivo, se suoniamo nelle vostre parti venite a vederci. No, infatti mi farebbe un sacco di piacere venirvi a vedere, e speriamo di riuscire a beccarci in qualche intramezzo, in qualche prossima data, oppure magari una di quelle che avete già programmato. Adesso vedo quando riesco, quando si riesce. Quando si riesce, esatto. Però veramente sì, mi farebbe un sacco di piacere vedervi, anche perché comunque ti dicevo, ne abbiamo parlato tanti anni fa di questo nuovo progetto che sarebbe partito, finalmente è partito. Adesso mi farebbe piacere anche vedere il vostro approccio da live. Quindi direi che te la sei giocata bene anche questa domanda così. Hai visto? No, il silenzio iniziale è sempre quello, bene o male, dici, mo' merda, che cazzo gli vado a dire? Però alla fine, bene o male, ripensandoci qualcosa si salta fuori. Ultima cosa, ho scoperto, andando a vedere gli Shandon gratis qui a Bologna la settimana scorsa, che diceva Olli che Spotify paga la band dal 31esimo secondo in poi, quindi se un ascoltatore ascolta una canzone di una band X e si ferma al 20esimo secondo, la band non viene pagata dal 31esimo, esatto, dal 30esimo secondo, quindi quindi almeno se vi piace aspettate 30 secondi, se non vi piace toglietelo prima dei 30 secondi. Dici, esatto, almeno 30 secondi, poi dopo no, ovviamente non so a che livello effettivamente Spotify paga o quant'altro, però almeno ascoltate 30 secondi, fai 35 per sicurezza, sì, almeno esatto, per dare lo sbattimento ai ragazzi che si sono sbattuti, che possono essere più o meno conosciuti, però almeno per dare un attimo un contributo così. Come ti dicevo, sono arrivato alla fine della puntata, ti ripeto, grazie ancora per la disponibilità e mi ha fatto un sacco di piacere finalmente dopo tanto tempo averti qua per parlare appunto dei Lilians. Ci vediamo presto e io ti saluto qua. Sì. Ciao Dani, grazie a te dell'ospitata, è stato un piacere anche per me. Benissimo, quindi ci vediamo alla prossima. Bella, grande, grazissimo. Vado effettivamente a chiudere la puntata, come di consueto, buon punk rock a tutti.